con Annalisa Nicastro di Leggere Tutti per parlare del Grand Tour in Italia tra cultura e natura, idee di viaggio, libri, itinerari, parchi letterari. La maratona letteraria sul tema del viaggio in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, venerdì 5 giugno 2020. Annalisa, ben trovata. Ciao, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Raccontaci. Siamo un'altra maratona culturale e questa volta insomma la nostra rivista Leggere Tutti insieme ai parchi letterari e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO insomma darà il via a questa maratona culturale all'insegna del rapporto tra viaggio e cultura. Ci siamo appunto resi conto tutti quanti che quello che abbiamo vissuto ultimamente, insomma che la recente pandemia ha un po' obbligato tutti quanti a fermarsi e a ripensare, no, il mondo come lo viviamo. E quindi questa cosa deve essere un'occasione, diciamo, per un profondo ripensamento anche del viaggio, del turismo, perché è sotto gli occhi di tutti che nulla da questo momento in poi sarà come prima. E quindi col nostro Grand Tour ci proponiamo di far conoscere insomma delle mete un po' nascoste, diciamo, no? Che fanno parte delle bellezze italiane che non tutti conoscono, quindi a partire dai parchi letterari che il presidente Stanislao De Marsanic, con insomma personalità illustri, ci presenterà, perché sono 26-27 parchi in tutta Italia, ma poi non solo, abbiamo anche i parchi naturali, ci sarà anche per esempio Giordano Bruno Guerri che ci guiderà in diretta in una visita inedita al Vittoriale che ha appena riaperto al pubblico. Faremo anche un'altra tappa al labirinto del Masone, voluto e fondato da Franco Maria Ricci. Insomma, faremo un bel viaggio non solo nei luoghi ma anche in alcuni libri e con alcuni autori e scrittori che sono molto sensibili alle tematiche ambientali, come ad esempio Paolo Cognetti, che è stato il vincitore insomma dello Strega nel 2017. Una cosa a cui appunto ci tenevo sempre a rinforzare è il fatto, come l'altra volta, che andremo in streaming sia su YouTube e questa volta anche su Facebook, e sarà possibile per tutti gli utenti interessati partecipare in diretta, quindi con le domande che possono rivolgere direttamente a tutti i nostri ospiti. Prima, durante e dopo la diretta ci sarà anche la possibilità di segnalare insomma il proprio interesse inviandoci per esempio un'email a info@leggeretutti.it e ovviamente senza alcun impegno una o più mete che si vorrebbero visitare, no? Tra quelle di cui poi parleremo nel programma, perché poi Leggere Tutti si occuperà di mettere in relazione diretta agli utenti interessati con i responsabili delle strutture e organizziamo insomma queste visite guidate riservate. Anche questo ci sembra una buona cosa, ecco. Volevo chiederti come sarà ogni singola tappa, tendenzialmente come sarà strutturata. Faremo un viaggio appunto intervallando questi luoghi cioè questi luoghi naturali e anche storici, perché poi appunto i parchi letterari è come entrare nelle pagine di un libro, no? Perché avremo per esempio il parco letterario dedicato a Pierpaolo Pasolini, quindi ricorderemo Pierpaolo Pasolini e parleremo del parco, ma così sono disseminati in tutta Italia. Ma il programma è molto variegato, nel senso che alterneremo visite a luoghi con incontri con gli scrittori che hanno scritto libri sui viaggi, sul viaggio, e poi ci sarà anche un interessante diciamo confronto con le case editrici che si occupano proprio di queste tematiche, come ad esempio abbiamo il Touring Club e DT, insomma Lonely Planet e di Ciclo, no? Fra le tante, insomma, su cui faremo un po' un resoconto di quello che sta per diventare, di quello che sarà il viaggio, il turismo, ecco, faremo un po' lo stato dell'arte della situazione. Che arco temporale coprirà?

da Marco Olivieri, il nostro regista del suono. Poi tutti questi lavori, la musica, la composizione di tutti questi, cioè di quattro di questi, è di Luigi Ceccarelli, un compositore di musica elettroacustica con cui lavoriamo da circa 20 anni. Solo Rosita ha la musica di Davide Sacco, ma sono opere musicali in realtà. Sono CD già pubblicati, poi aspettiamo di pubblicare anche altro, perché stiamo editando con Stradivarius altri 3 CD con l'etichetta Stradivarius, e il primo che editeremo sarà Fedeli d'Amore, il nostro ultimo spettacolo. Come non ho sentito? Dei primi riscontri, che cosa te ne pare? È appena non è ancora una settimana e quindi ancora non possiamo sapere, però insomma sembra buono, lo sapremo tra mesi su che cosa significa. Sicuramente aprirà delle finestre, non so, io ascoltando Diamanda Galas, che è una mia passione da molti molti anni, ecco, ascoltando lei si sono aperte tantissime finestre, per cui probabilmente, non so, qualcuno ascolta Diamanda Galas e magari si apre la finestra Ermanna Montanari, Roberto Dattini o altri di teatro, ecco. Credo che ci si arrivi anche per altre vie, non solo direttamente. Avremo tra un po' di mesi, insomma, un riscontro. Ma già il fatto di esserci per me è molto importante, perché, non so, tutti gli amici di mia nipote, altri adolescenti e anche gli adolescenti che vengono a vedere noi a teatro possono usufruire di questa piattaforma, no? Così semplice, facile da raggiungere, e loro stanno andando, insomma, ad ascoltare queste operine. E a proposito di questi mesi di chiusura delle sale teatrali, come vi state muovendo in prospettiva? Allora, intanto noi in questi mesi di chiusura abbiamo lavorato privatamente per il pubblico, cioè per poi uscire pubblicamente. No? E quindi, come ti dicevo, l'uscita di CD, l'uscita di libri, e anche abbiamo ideato una residenza artistica, e quindi il Teatro Rasi già in luglio ospiterà una residenza artistica per una performance, una piccola operina, anche questa musicale, vocale, che debutterà probabilmente in autunno, e quindi stiamo aprendo il teatro per prove e residenze artistiche. Il chiuso è sicuramente molto difficoltoso, no? Noi speriamo che le persone, gli spettatori abbiano fame, come abbiamo noi, di teatro. A noi è molto mancato ovviamente questo completamento delle nostre opere, no? Del rispecchiamento, del martellamento del pubblico, insomma, di questi occhi, e così speriamo pure per loro. Molti, molti di loro ci hanno scritto in questi mesi, ma quando si riaprirà, per cui insomma siamo estremamente fiduciosi. 5 spettacoli del Teatro delle Albe in streaming audio su Spotify, un saluto e un ringraziamento all'attrice Ermanna Montanari. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi. Viva, grazie tantissimo, a okay. Presto. Con Vincenzo Sparagna, direttore di Frigider, parliamo dell'appello Salviamo Frigolandia. Vincenzo, ben trovato. Buongiorno a voi. Cominciamo ricordando e spiegando a chi non la conoscesse cos'è questa esperienza Frigolandia. Ma Frigolandia è la terra di Frigider, è una struttura che abbiamo preso in concessione dal Comune di Campidoglio nel 2005, abbiamo inaugurato nel 2006, è un centro culturale dove abbiamo la sede delle riviste Frigider e Nuovo Male, abbiamo installato, cioè messo alle pareti dei saloni, delle stanze, il Museo dell'Arte Mai Vista, che è l'arte in un certo senso sì in origine di Pazienza e Mia, ma in realtà per estensione tutta quella di Frigidaire, di tutte le riviste che abbiamo fatto in questi ultimi 42-43 anni e che raccoglie naturalmente più generazioni di autori. Poi c'è un archivio storico molto molto importante, diciamo, non solo delle nostre pubblicazioni che sono molte, diverse centinaia, insomma, ma anche un archivio storico di altre pubblicazioni, di libri, insomma, è una documentazione su quella che si potrebbe definire la cultura alternativa o la controcultura degli ultimi decenni del secolo scorso e dei primi decenni di questo secolo, millennio che sia. Questa è Frigolandia, naturalmente è anche un luogo dove avvengono di tanto in tanto seminari, dove ci riuniamo nelle nostre feste annuali, 25 aprile per la liberazione dei frigoriferi intelligenti, la festa di luglio della rivoluzione per la presa della Bastiglia, il Thanksgiving Day, festa dell'accoglienza che facciamo alla fine di novembre. Sono venute migliaia di persone, è un luogo frequentatissimo e purtroppo però appunto l'attualità che ci stanno perseguitando la giunta comunale di Giano di Lupria, questo piccolo paesino di 3.000 abitanti, ci perseguita nel senso che cerca di liberare questo posto da noi, quindi ha fatto un'ordinanza di sgombero francamente assurda da tanti punti di vista, insomma ci provano con una serie di agganci, ci costringeranno a un ricorso al TAR, eccetera, nel tentativo di avere un posto vuoto, ecco, perché tutto il paradosso è che non ci devono fare niente, però probabilmente questo posto gli servirà ad avere un po' dei soldi pubblici per fantomatici rilanci, e questi soldi pubblici non si sa dove finiscono. Potrei raccontare il dettaglio di quello che è accaduto proprio accanto a noi a un camping che esisteva da 3 anni, che sei anni fa è stato chiuso per rilanciarlo. Questo rilancio ha consistito nella spesa di circa 400.000 euro e poi il campeggio è abbandonato, i lavori sono stati fatti proprio coi piedi e nessuno lo vuole, ma non solo, non c'è neanche il bando di assegnazione perché in realtà non sono finiti i lavori. Purtroppo un destino simile toccherebbe a questo posto, che invece è un bellissimo posto su cui noi abbiamo lavorato tanti, noi centinaia e centinaia di persone hanno lavorato moltissimo a sistemarlo ed è un bellissimo luogo dove studiare, prendere l'aria buona, insomma, fermarsi, disegnare, scrivere, semplicemente pensare. Questo è Frigolandia, è un posto in questo senso anche un po' magico, ma insomma speriamo che la magia ci preservi dall'ottusità di questa amministrazione, insomma, in questo momento presieduta da un sindaco leghista che non vuole neanche parlare con me, immaginate il delirio di questa cosa. Che tipo di contratto avete con il comune? Ma noi abbiamo un contratto di concessione che è stato firmato nel 2005 ed è un contratto decennale che prevede 3 rinnovi automatici di altri 10 anni ogni volta, salvo una nostra dispetta. Questo è il contratto e grazie a questo abbiamo potuto passare anni a sistemare i tetti, insomma spendere e lavorare tantissimo per sistemare il luogo e trasferire tutto quello che avevamo a Roma, qui a Giano dell'Umbria. Adesso il sindaco sta cercando di invalidare con un ricorso piuttosto arzigogolato, di invalidare proprio il contratto, perché noi non è che non rispettiamo i termini, paghiamo un canone annuo, ci siamo caricati di tutte le spese possibili e immaginabili anche per la cura del parco, che peraltro è aperto al pubblico e quindi anche un posto dove vengono perfino le famiglie, la gente di Giano, oltre che chi si trova a passare da noi. Questo contratto ci dovrebbe garantire di star qui fino al 2045, salvo che non ce ne andiamo prima, si capisce, perché potrebbe succedere qualunque cosa per cui decidiamo di interrompere, però adesso l'ipotesi dello sgombero sarebbe catastrofica, tanto per capire qui, a parte che abbiamo circa 3.500 tavole importantissime dei più grandi autori di fumetto, di illustrazione, quadri, sculture, non ne parliamo. Poi abbiamo una 50-60 di tonnellate di carte che sono sì i nostri giornali, ma sono, come dicevo, anche tutto questo archivio, migliaia di fotografie, vabbè, libri, non sto a dirlo, per giunta tutti i mobili che sono stati fatti apposta per Frigolandia, sono in certo senso degli arredi in legno, anche artistici, insomma tutto questo gigantesco patrimonio, oltre alla redazione dei giornali e quindi i computer e tutto quello che questo comporta, e insomma non è un problema semplice se dovessero eventualmente vincere questi, come posso definirli, ottusi nemici della cultura, dell'arte, del pensiero libero. Vincenzo, come è articolato l'appello? L'appello sta in girando su change.org ed è un appello per salvare Frigolandia dall'assurda minaccia di sgombero. È rivolto, perché sai, gli appelli su Change bisogna rivolgerli a qualche personalità, noi l'abbiamo rivolto al Presidente della Repubblica e al Ministro dei Beni Culturali, nella speranza che possano in un certo senso si sveglino queste mega autorità che dovrebbero governare anche questo universo della cultura, si sveglino per in qualche modo fare pressione e convincere il comune di Giano dell'Umbria, insomma comunque l'appello ci può aiutare nello stesso ricorso che faremo per dimostrare che questo non è un, diciamo così, un gruppo di amici che si sono ritirati in campagna, perché non si è ritirato proprio nessuno. Noi stiamo qui come potremmo essere nel centro di Roma o nel centro di Milano, dove pare, insomma, perché il mondo contemporaneo è fatto così, insomma, è fatto di un legame che va oltre la collocazione geografica. Quindi speriamo che rispondano, che in qualche modo siano sensibili a questa cosa. Adesso stiamo intorno, penso, alle 2600 firme, raccolte in pochi giorni peraltro. La raccolta di firme continua, anzi tutti quelli che ci dovessero sentire, voi stessi nei siti, eccetera, fatela circolare il più possibile, perché poi a rendersi conto del crimine culturale che si sta tentando di fare, io credo che qualsiasi persona di buon senso possa firmare questo appello e, diciamo così, coordinarsi con gli altri, almeno idealmente, di una protesta. L'appello Salviamo Frigolandia. Un saluto e un ringraziamento al direttore di Frigidaire, presidente Vincenzo Sparagna. Oh, presidente della Repubblica di Frigolandia, certo. No, è una repubblica immaginaria, ci tengo a dire anch'io sono presidente immaginario. Poi naturalmente guardatevi su www.frigolandia.eu, insomma, se uno vuole approfondire, insomma, si capisce, c'è il nostro sito, insomma. Poi continuiamo a produrre libri e giornali, quindi potete abbonarvi a Frigidaire al Nuovo Male, ordinare i nostri libri, insomma, va bene, ci sono tante cose che si possono fare. Un abbraccio e a presto. Un abbraccio a te e a tutti. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.